Anti-G8 in Scozia 2005, 2 luglio alle 21, resoconto della giornata. Almeno 250.000 persone di diversissime aree sociali hanno dato vita oggi alla Make Poverty History per contrastare il G8 che si riunirà dal 6 all'8 luglio nella località golfistica scozzese di Glen Eagles. La manifestazione è partita a scaglioni e si è svolta senza rilevanti problemi nonostante la massiccia presenza di forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. Molti gruppi che hanno manifestato in maniera creativa, le numerose Samba Band, la Infernal Noise Brigade e il coloratissimo Esercito dei Pagliacci hanno preso parte alla dimostrazione, uniti ad alcune organizzazioni religiose. Anche il Papa questa mattina ha lanciato un messaggio chiedendo ai governanti di agire per ridurre la povertà nel mondo. Prima dell'inizio della manifestazione ufficiale, abitanti di Craigmillar, l'area più povera di Edimburgo, si sono uniti agli attivisti anti-G8 che erano accampati in un parco occupato durante la notte. Hanno marciato nella zona per mostrare la loro opposizione alla povertà. Un blocco anticapitalista si è staccato dal corteo principale ed è subito stato circondato dalla polizia in antisommossa. Alcuni compagni, inizialmente fermati, sono stati rilasciati in piccoli gruppi, mentre almeno un attivista è stato arrestato, in base a una legge vigente in Scozia, secondo la quale non è proibito mascherarsi alle manifestazioni, a meno che la polizia non lo richieda esplicitamente. La notizia è stata confermata dal Legal Team di Edimburgo. Rimanete aggiornati ascoltando lo streaming diretta dal Media Center a Lugano o consultando regolarmente la pagina web di Indymedia Svizzera.